America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Washington, Mario Platero. Hay algo dentro de nosotros que nos invita a la alegría. La prima messa di Papa Francesco in America, a Washington, alla Catholic University, alla National Shrine, la più grande chiesa americana. Tra l'altro c'erano, pensate, 35.000 persone. Il Papa ha partecipato anche alla cerimonia per la canonizzazione di Junipero Serra, un missionario che aveva contribuito a grandi ondate di conversione. Beatum Juniperum Serra, Santum esse decernimus et definimus. Ecco, una canonizzazione che ha avuto qualche polemica, è la prima che avviene in suolo americano, ma ci sono state proteste da parte degli indiani americani perché ritengono che Junipero Serra fosse parte di un movimento violento che coi conquistadores e con la conquista del West e della California aveva poi contribuito a decimare gli indiani americani. Il Papa naturalmente non è d'accordo, la Chiesa non è d'accordo, c'è stata una riunione subito dopo con un gruppo di rappresentanti degli indiani americani in arrivo dalla California. Ma come vi dicevo, la giornata è cominciata alla Casa Bianca. Papa Francesco è arrivato puntualissimo alle 9:15 del mattino nella sua 500L, la Fiat 500L che ormai è sulla bocca di tutti, tutti ne parlano, reti televisive, questo Papa che si muove in Fiat 500, insomma è diventata un po' una gag qui in America. Grande colpo pubblicitario tra l'altro per FCA, per Marchionne and Company, anche perché poi la Popmobile, la macchina aperta, è una Jeep sempre del gruppo FCA. Ecco, il Papa accolto da Barack Obama, dai massimi rappresentanti politici della capitale americana, dai Marines in alto uniforme, bandiere americane del Vaticano al vento, perché poi la giornata era bellissima, era davvero una grande giornata di sole, una giornata gloriosa, da queste moltitudini affollate anche sul prato della Casa Bianca, c'erano, pensate, 15.000 persone al di là delle delegazioni. E la coreografia di oggi, devo dire, è stata una delle più complesse e articolate che abbia mai visto in una cerimonia di arrivo di un capo di Stato di Governo alla Casa Bianca. Poi Francesco, salutato da squillo di trombe, rullo di tamburi, è sceso dalla sua vettura, ha salutato la coppia presidenziale, ci sono stati gli inni nazionali, prima quello del Vaticano, poi quello americano, una parata di militari in vecchie divise rivoluzionarie rosse accompagnata da marcette tradizionali, discorsi, poi l'incontro nella sala blu della Casa Bianca e poi nell'ufficio ovale. Ecco, veniamo alla sostanza politica. As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country, which was largely built by such families. Ecco, questo è uno dei passaggi più importanti del discorso del Papa. È il momento in cui, salutando subito all'inizio del suo discorso, il Papa dice buongiorno, e poi dice sono felice di essere qui in questo paese perché, come molti arrivati qui, anch'io sono figlio di immigrati. E qui ha aperto il primo discorso politico importante, perché Francesco qui a Washington è già entrato nel pieno del dibattito presidenziale americano appellandosi alle coscienze di tutti i politici su questioni che per lui sono centrali, appunto l'immigrazione, ma anche cambiamenti climatici, tematiche care alla sinistra. Però non ha modificato le sue posizioni contrarie all'aborto e ai matrimoni gay, che sono invece cavalli di battaglia della destra. Così in questo suo discorso, il discorso politico, ve lo ricordo, deve essere quello di oggi in congresso, e lo sarà certamente perché da lui ce lo aspettiamo. Ecco, Francesco ha giocato d'anticipo ed è riuscito a parlare di politica superando allo stesso tempo gli schieramenti politici e confermando nei fatti di non essere né di sinistra né di destra, come aveva detto arrivando dal viaggio dalla Havana a Washington, ma di rappresentare semplicemente quello che è il pensiero dottrinale della Chiesa Cattolica. Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem. Ecco, altro tema molto forte è quello dell'ambiente, di nuovo un tema delicato in campagna elettorale americana, e Francesco apre ringraziando Barack Obama per quello che ha fatto per cercare di controllare le emissioni di gas dannosi, di gas velenosi. E poi è partito, ha detto possiamo ancora farli, i cambiamenti necessari per far avanzare uno sviluppo sostenibile, in grado di integrare, perché sappiamo che le cose possono cambiare. Accetto l'urgenza, dice, mi sembra chiaro che il cambiamento climatico non può essere lasciato alle generazioni future. E qui ha citato Martin Luther King, un riferimento anche in onore di Barack Obama, che adora il vecchio leader per i diritti civili americani, ucciso, ricordiamolo, nella sua battaglia per la libertà e per la giustizia, e ha ricordato una frase di King, una frase celebre del grande pacifista americano, quando lui disse: per troppo tempo non abbiamo pagato una cambiale dovuta, ora è giunto il momento di onorarla, disse King. Papa Francesco la fa sua e la trasferisce da quella che era la battaglia per i diritti civili, cara a Barack Obama ovviamente, alla battaglia per l'ambiente. Ecco, scavalcando la politica, Francesco di fatto ha affermato che la sua guida è prima di tutto la dottrina della Chiesa cattolica e cristiana. Il Papa conforta gli afflitti a Cuba, Cuba esclusa, ma affligge chi si trova in una posizione molto più confortevole, cioè l'America, e nelle discussioni private con Barack Obama ha chiesto di togliere le sanzioni contro Cuba. Ecco, non abbiamo avuto molti dettagli da questo incontro privato, però ho saputo che l'America quasi certamente non porrà il veto, questa sarebbe la prima volta, a un voto atteso, un voto ricorrente, la settimana prossima all'ONU per condannare appunto l'embargo. Ma sentiamo due parole di Barack Obama. And yet I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to your role as Pope, but to your unique qualities as a person. Obama è andato ben al di là di quello che ha fatto per qualunque altro leader. Come sapete, ieri è andato in aeroporto, era davvero con un atteggiamento di grande reverenza nei confronti del Papa, e ha detto una cosa molto importante, ha dato il riconoscimento personale che Francesco merita, perché anche in America, come nel resto del mondo, questo pontefice ha toccato, come dicevo prima, una corda emotiva di cui si sentiva il bisogno. Obama, nella dichiarazione che ho fatto sentire, dice: io credo che l'eccitazione attorno alla sua visita, cioè alla visita del Papa, sia da attribuirsi non solo al suo ruolo di Papa, ma alle sue qualità uniche come persona, con la sua umiltà, il suo abbraccio di semplicità, la dolcezza delle sue parole, la generosità del suo spirito. Vediamo in lei un esempio vivente degli insegnamenti di Gesù, un leader la cui autorità morale non viene soltanto dalle parole, ma dalle azioni. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!